1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, dai che è venerdì, forza italiani, sono le 7:18 minuti in punto, razza di debosciati e voi siete ancora nelle vostre case comode. No, magari adesso mi insultate giustamente a dire sono al lavoro da 4 ore, sono in coda da 2 ore, sono sul treno da 1 ora e mezza in mezzo a una serie di pendolari tutti schiacciati come delle sardine. Vabbè, vabbè, in ogni caso debosciati siete e debosciati rimanete, affettuosamente parlando. Oggi parleremo di questo decreto Salva Roma, tornerà con noi il grandissimo Oscar Giannino. Dalle 8:15 avremo ospite anche il sindaco di Varese della Lega Attilio Fontana, avremo ospite anche il senatore del PD Giorgio Santini, avremo ospite anche Eva Klotz alle 8:45, pasionaria indipendentista del Trentino Alto Adige che è una delle beneficiarie di questi vitalizi scandalosi, prenderà circa 1.100.000 euro nei prossimi anni. Una vicenda che è esplosa sui quotidiani locali, sui quotidiani nazionali, ne abbiamo parlato ieri, oggi sentiremo anche la versione di Eva Klotz. Ora che dire, andiamo a leggere i giornali? Sì, sfogliamoli, va. Venerdì 28 febbraio e i titoli sono questi: Il Sole 24 Ore, via libera alla delega fiscale. Mentre il Corriere della Sera mette così cambieranno casa e fisco, ma anche l'apertura su esplode il caso Salva Roma. Marino minaccia l'ira di Renzi. Repubblica, una notizia importante, Fondo Monetario Italia sulla strada giusta, ma la notizia più importante è un po' più sotto a mio modo di vedere. Perché c'è la notizia su Repubblica dell'Unione Europea che scrive al Tesoro, al Ministero del Tesoro italiano, dovete chiarire le norme sulle quote Banca Italia. Ci sarebbe una lettera, secondo Repubblica, già spedita dall'Unione Europea all'Italia per capire se dietro quel decreto che ha salvato, ha ricapitalizzato Banca Italia, ci siano degli aiuti di Stato nascosti alle banche. Il Messaggero, e qui iniziano gli articoli sul Salva Roma, Renzi mette sotto tutela Marino, arriva il nuovo decreto Salva Roma, conterrà un piano di rientro a tappe forzate. Questo è il titolo del Messaggero più interessante sul caso Salva Roma. Sono indiscrezioni del nuovo decreto che oggi il Consiglio dei Ministri approverà per salvare Roma, per l'appunto. La Stampa, sindaci, prima spina per Renzi. Il Giornale, Roma piange, Renzi paga. Libero, il pacco di Roma. Il Fatto Quotidiano, Renzi promette miliardi finti, quelli veri li lascia all'estero. Per l'Unità, Renzi Marino scontro capitale, mentre pena capitale il manifesto. Come vedete la questione di Roma è tra le più gettonate come titoli di prima pagina. Voglio partire da alcuni racconti, il primo l'abbiamo sentito nel giornale radio. C'è stata una svolta per la vicenda del tassista ucciso a Milano dopo una colluttazione con la persona che ha colpito il tassista, che si trova agli arresti domiciliari, dal carcere agli arresti domiciliari, perché da omicidio volontario è stata derubricata l'accusa al omicidio preterintenzionale. In pratica ha ucciso il tassista, ma non è un assassino, non voleva ucciderlo, racconta Paolo Colonnello a pagina 13 della Stampa. Poiché il tassista si avvicinava con fare minaccioso, ho proteso il braccio sinistro per tenerlo a distanza e gli ho urlato «Che cazzo vuoi?». Lui mi ha preso il braccio sinistro e ha iniziato a strattonarmi, poi mi ha preso anche l'altro braccio. A quel punto c'è stata una velocissima colluttazione nella quale ho dato uno strattone col braccio destro e così facendo ho colpito il tassista. Questo è il racconto di Davide Guglielmo Righi nell'interrogatorio, il consulente informatico di 48 anni che domenica sera ha colpito con una bottiglia di plastica piena d'acqua il tassista Alfredo Famoso, 68 anni, causandone la morte. La dinamica della vicenda porta senz'altro a stabilire che l'indagato, scrive il giudice, pur avendo colpito il capo della vittima con una pesante arma impropria, non avesse l'intento di uccidere il famoso, bensì solo quello di arrecargli una lesione o comunque di percuoterlo. Così il GIP Gianfranco Criscione, che pur non credendo completamente alla versione dell'indagato, ha derubricato il reato da omicidio doloso a preterintenzionale, ordinandone dunque la scarcerazione e trasformandola in arresti domiciliari. Certo, scrive La Stampa, un uomo aggressivo, Righi, anzi di più, descritto dal giudice di indole irascibile e violenta, ma non un assassino, una discriminante, anche se difficile da accettare, che fa la differenza tra carcere e arresti domiciliari. La vicenda ovviamente c'è ovunque, il Quotidiano Nazionale dedica una pagina a questo. A casa l'aggressore del tassista, il GIP dice, è stato provocato. E così anche sul Corriere della Sera ci sono anche dei disegni su come è andata la vicenda, la ricostruzione secondo le testimonianze, i 5 racconti sulla morte del tassista. Cesare Giuzzi e Gianni Santucci raccontano dai verbali dei testimoni che hanno assistito alla lite del fermato la vicenda. Ieri, tra l'altro, la compagna incinta particolare, insomma, perché c'era questa compagna incinta che Righi dice ho voluto proteggere dal tassista, anche che è passato non dandoci la precedenza, ha partorito. Questo è il racconto di cronaca che trovate sui giornali, mentre l'altra vicenda di cronaca che maggiormente ha ottenuto attenzione e attenzione è quella di Francesco Schettino. Anzi, verrebbe da dire, sono due i Francesco Schettino protagonisti sui giornali oggi. Beh, uno è quello più celebre, il comandante della Costa Concordia, che ieri è tornato sulla costa, sulla Concordia, all'Isola del Giglio. Lo show lo abbiamo sentito anche alle 6:30, si è intrattenuto con i giornalisti. Chi dice che ho abbandonato la nave non ha capito un cazzo, questo ha detto il comandante. Certo, i resoconti sono un po' impietosi di questa giornata. Per esempio, Grazia Longo sulla Stampa fa notare, diventa anche il titolo, ciò che avrebbe detto il comandante poco prima di salire ai giornalisti. Inquadrami bene, mi raccomando, che si veda chiaramente il ponte della nave. Francesco Schettino non fa in tempo a salire sul relitto della sua Concordia, che subito si mette a sghignazzare col suo avvocato, si toglie il giubbotto di pelle stile Fonzi, l'elmetto di sicurezza e si fa fotografare sul relitto. E chissà se le sue risate sono un modo per esorcizzare il dramma del nubifragio o la banale conferma del suo narcisismo. Mi dipingono come un Latin lover, ma io sono e sarò sempre un comandante, dice, poco prima di immergersi tra la selva di telecamere e cronisti che lo inseguono. Inquadrami con dietro il ponte, questo è il titolo della Stampa, pagina 16, Schettino show sulla Concordia. Poi dice ai giornalisti, io ci metto la faccia. Ha detto anche questa frase che viene riportata dai giornali, incredibile a suo modo. A pagina 16 del Corriere, Marco Imarisio per esempio racconta tutta la giornata del comandante Schettino, e c'è anche questa frase. A un certo punto, dopo aver parlato con un pubblico ministero, c'è qualche imprecisione, qualche scivolata nel surreale, tipo questa. Francesco Schettino, due punti, aperte virgolette. Non è vero che quella notte ho sbagliato, anzi, alcune leggi sono state adeguate proprio in base alla mia manovra. Alcune leggi internazionali, regole dal 1 gennaio scorso, per esempio, le navi oltre 100 metri di lunghezza non possono avvicinarsi alla costa grazie alla mia manovra. Ma come grazie? Ma come grazie alla mia manovra? Comandante, forse è per colpa di quella manovra. No, toccherà anche dirgli grazie. Non vorremmo riferirlo ai parenti delle 32 vittime che grazie a questa manovra sono state riscritte delle norme internazionali. Comunque, Schettino torna a bordo, tutti accaniti contro di me, ma io ci metto la faccia. Anche Repubblica, con Corrado Zunino, fa una pagina dedicata a questa vicenda, pagina 24. Ma dicevo che i protagonisti sono due e incredibilmente si chiamano Francesco Schettino, anche questi. C'è anche un Francesco Schettino che era giudice a Napoli e che è caduto un giorno dalla sedia nel suo ufficio. Succede, io l'ho detto anche prima alle 6:30, anche qua c'è una sedia difettosa, l'altro giorno mi sono seduto a Radio 24, stavo cadendo. Solo che questo signore, Francesco Schettino, per questa caduta ha fatto causa allo Stato, perché dice danno biologico, mi ha procurato un'ernia questa caduta. Ernia per la caduta dalla sedia, al giudice vanno 140.000 euro. Dopo l'infortunio il magistrato ha ottenuto la pensione, poi ha fatto richiesta di risarcimento, il ministero si è opposto, ma il TAR, c'è sempre un TAR in Italia, gli ha dato ovviamente ragione. Peppe Rinaldi su Libero, cadere da una sedia mentre si è in ufficio rovinando col sedere per terra, un'esperienza vissuta da molti, che può avere fastidiose conseguenze per la salute, distorsione del bacino, lesioni vertebrali, lividi, escoriazioni, discende un danno per il lavoratore compensato da chi di dovere a seconda dei parametri. A un magistrato in servizio del distretto napoletano una caduta dalla sedia che qualche danno gli creò si è risolta in un baleno, 7 anni dalla data dell'infortunio, risarcimento 140.000 euro. Nome del giudice, ex giudice Francesco Schettino. Oh, non è una barzelletta, eh? È l'Italia dei TAR. Alessandro Milan, il Rocco Siffredi dell'informazione. Cara ascoltatrice, buongiorno anche a lei. Allora, alle 7:33 minuti e la sghignazzano. Cosa ridete? Peter Bescafè ride, vabbè, so. Miriam Lucchetti ride, ridono, ridono. Allora, alle 7:33 minuti il Salva Roma, che è il tema, affronteremo anche alle 8:15. Renzi contro Marino, questo è il titolo del Sole 24 Ore, pagina 4. Ci sono tantissimi articoli dedicati a questa vicenda. Ieri Ignazio Marino ha iniziato al mattino con Giovanni Minoli con un'intervista molto dura, nella quale ha minacciato appunto la domenica chiudiamo la città, una minaccia che è stata considerata inaccettabile. Questo l'aggettivo usato da Matteo Renzi, il premier, che racconta nei giornali ha fatto una telefonata di fuoco allo stesso Marino, ne dà resoconto Maria Teresa Meli a pagina 3 del Corriere della Sera. Maria Teresa Meli, che sempre scrive articoli molto attenta ai retroscena di quello che succede nel mondo renziano. La telefonata gelida di Renzi, basta con questi piagnistei. Che sia un tipo fumantino è un fatto noto, non a tutti, ma almeno a quelli che lo conoscono bene. Ieri però anche chi nel suo staff è solito cercare di frenare le ire del Presidente del Consiglio ha capito che non era aria. Questa vicenda che il cosiddetto Salva Roma sarebbe stato ritirato, la si sapeva da tutta la settimana per due motivi. Perché per farlo passare innanzitutto la Presidente Boldrini alla Camera avrebbe dovuto applicare per la seconda volta nel giro di pochissimo tempo la tagliola sui tempi del dibattito. E la prima si sa come è andata a finire. Non solo, Renzi avrebbe dovuto avviare l'era del suo governo nel peggiore dei modi, con un atto di fiducia. No, il Premier non voleva e non poteva farlo. Sono irritato per questo modo demenziale di legiferare, dice continuamente ai suoi. E allora ha alzato il telefono e ha parlato con Marino. Forse a Marino non sarà sembrato vero, erano giorni che il sindaco tentava di parlare con il premier segretario del PD, ma quando l'inquilino di Palazzo Chigi si arrabbia lo fa sul serio. Come ti permetti? Gli ha detto secondo il Corriere. Noi siamo qui a lavorare per trovare soldi per l'Italia e tu inciti i romani alla rivolta o minacci le dimissioni per minare subito il lavoro che abbiamo fatto. Io sono stato sindaco come te, so come funzionano queste cose, ci vuole coraggio, io prenderò le mie responsabilità, tu le tue, ma smettila di mettere i bastoni tra le ruote a chi si sta ammazzando per rimettere in sesto questo paese. E racconta il Corriere, è volata anche qualche parola grossa con la C aspirata, come è tipico dei fiorentini. Per la verità, nel resoconto di Sebastiano Messina, pagina 3 di Repubblica, Ignazio Marino è apparso più tranquillo, racconta Sebastiano Messina, dopo una fiume di telefonate iniziata appunto al mattino a Radio 24, continuata in tutte le radio, poi a Sky TG24 dalla nostra Paola Saluzzi. Finalmente Sebastiano Messina racconta, a metà pomeriggio Ignazio Marino mangia il suo pranzo, una mela sbucciata. E quando lo sentiamo anche noi di Repubblica, eccolo qua, con Matteo Renzi non ci sono problemi, assolutamente, mi ha parlato con lo spirito di un sindaco che sa bene che gli autobus non vanno ad aria ma a gasolio. Io gli ho detto, guarda, io ho avuto solo un plauso per questo governo, per un motivo semplice, così come un chirurgo si sente più a suo agio tra i chirurghi che non tra i diabetologi, io mi sento protetto da un governo dove ci siete tu e Del Rio, due sindaci come me. Sta di fatto che questa versione edulcorata è un po' smentita dall'irritazione invece che trapelata da tutti i giornali per quel che riguarda Renzi, tanto che il Messaggero, che dedica l'apertura, le prime quattro pagine a questo tema, racconta: Matteo Renzi, è vero, ha deciso che il Campidoglio riceverà gli aiuti necessari a far quadrare i conti, anche quelli del 2014, ma dovrà accettare un piano di rientro stringente con vincoli che dovranno essere negoziati a un tavolo al quale, oltre al Comune di Roma, la gestione commissariale, siederà anche il Ministero dell'Economia. Una misura già stata decisa durante l'iter di conversione del decreto Salva Roma decaduto, ma che il governo ha deciso di rendere ancora più stringente nel decreto che approverà oggi. Queste indiscrezioni ci sono nell'articolo di Andrea Bassi a pagina 3. Il piano di rientro a tappe forzate, ecco i vincoli del governo al Campidoglio. Tanto che qualcuno si spinge oltre a parlare di sindaco che verrà in qualche modo commissariato di fatto. Anche perché oggi ci sono una serie di articoli impressionanti sugli sprechi, buchi di bilancio. Guardate per esempio cosa scrivono Paolo Conti e Sergio Rizzo a pagina 5 del Corriere. Slalom tra buche, sprechi, IRPEF esagerata, ma un avvocato costa 300.000 euro. Cioè questo è il comune, per carità la colpa non è di Marino, sono le gestioni che negli anni si sono succedute, nelle quali per bocca dello stesso Marino, udite udite cari italiani, ancora bisogna pagare al Comune di Roma i debiti per gli espropri delle Olimpiadi del 1960. 60! Questa è la situazione italiana. O ancora, raccontano Rizzo e Conti sul Corriere, Marino ha ereditato una situazione che definire complessa è un eufemismo. Sgombriamo dunque il campo dagli equivoci. Ma al Comune di Roma ci sono alle dipendenze 23 avvocati. La cosa sorprendente non è tanto il numero quanto le retribuzioni. Le retribuzioni, eccole qui, si va da un minimo di 262.338 euro per Andrea Camarda, Umberto Garofoli, a un massimo di 321.011 euro per Andrea Manganelli. Totale per i 23 avvocati 6.648.552 euro nel 2012, 6.648.000 euro in un anno per pagare gli avvocati del comune. Ma non solo, sapete quanto ha perso l'ATAC, l'agenzia dei trasporti, in 10 anni con 12.276 dipendenti? 1 miliardo e 600 milioni. E così si potrebbe continuare. Libero, in stipendi, secondo uno studio della UIL, i dirigenti di Roma, delle società municipalizzate, sono pagati a peso d'oro. Il totale delle retribuzioni 37 milioni di euro l'anno, una media compenso medio di 125.000 euro con punte come l'amministratore delegato di Acea Paolo Gallo, 790.000 euro lordi. Quest'anno addirittura 36.000 euro in più. Segue il presidente Giancarlo Cremonese e il presidente del Collegio dei Sindaci Enrico Laghi, 408.000 euro il primo e 286.000 euro per il secondo. Mentre il costo dei 6 direttori dell'azienda, della CEA, 6 direttori, 2 milioni di euro divisi per 6. E così si va avanti con le società municipalizzate. Allora, come la volete vedere questo decreto Salva Roma? Ne parliamo alle 8.15. Mentre Libero si concentra su un'altra città, pagina 5, accomunata, Napoli. Il debito di Napoli affonda De Magistris, con Tommaso Montesano che mette questa impressionante denuncia della Corte dei Conti di qualche giorno fa. Un cittadino su due a Napoli, un cittadino su due non paga le tasse. Non paga le tasse, impossibile risanare il bilancio, sentenzia così la Corte dei Conti. E il comune si avvicina sempre più al default. Un cittadino su due non paga le tasse. Certo, è una città, ma dovrebbe essere fatta fallire non domani, non oggi, ma ieri. Altre problematiche però per Renzi vengono dall'Europa. La notizia viene messa con ampio risalto in prima pagina su Repubblica. Federico Fubini: l'Unione Europea ha scritto al Tesoro, al Ministero dell'Economia italiano. La lettera, scrive Fubini, è partita pochi giorni fa e, visto l'impatto che può essere dirompente, è stata mandata in punta di piedi, ma è difficile che l'atterraggio sia altrettanto morbido, perché la Commissione Europea vuole capire dal Tesoro se dietro il decreto di rivalutazione delle quote di Banca Italia, quello che ha creato tutto il putiferio, la ghigliottina e poi anche le risse parlamentari, non ci siano stati aiuti di Stato agli istituti di credito. Fosse così, il decreto che rivaluta il capitale di Palazzo Koch andrebbe riscritto e il premier Renzi avrebbe la certezza di aver ereditato dal suo predecessore un'eredità politicamente radioattiva. Per ora Bruxelles non salta ad alcuna conclusione, perché l'esame del caso Banca Italia è appena agli inizi, e tutto è partito peraltro dal ricorso alla commissione da parte di un eurodeputato italiano dell'Italia dei Valori, Niccolò Rinaldi, sulla rivalutazione del capitale della Banca d'Italia. Ma certo, anche il vicepresidente della Commissione, lo spagnolo Almunia, aveva già notato l'operazione su Via Nazionale. Cioè, attenzione, l'Unione Europea, secondo Repubblica, ha già spedito una lettera per capire se dietro alla rivalutazione di Banca Italia quel decreto si celino degli aiuti di Stato alle banche italiane. Questa è una grana che potrebbe deflagrare sulla scrivania del Ministro dell'Economia e quindi del governo italiano. A proposito di ministri, sottosegretari, io c'ho sempre qui la lista, vedo un po'. Meazza non c'è, vabbè. Mauro Meazza, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, ho capito che oramai lì i giochi sono fatti. No, rinviano ogni giorno, ma tu non ci sei mai, forse spunti all'ultimo. Come... No, sì, perché è bene non bruciarsi. Esatto, come cose, no? Esatto. Allora, avanzo a fari spenti. Volevo aggiungerti su Banca d'Italia, decreto IMU Banca Italia, noi in Finanza e Mercati abbiamo un articolo di Marco Ferrando che anticipa quale può essere il corretto trattamento in bilancio, aspetto abbastanza cruciale per quello che dicevi tu prima. Cioè, possiamo, questo sospetto della Commissione poi dipenderà anche appunto da quanto noi consideriamo in bilancio. La questione è, diciamo, forse abbastanza indigesta alle 8:15 del mattino, però il senso è che è possibile l'iscrizione in conto economico e quindi, insomma, dovrebbe esserci un effetto positivo sui conti delle banche. Sì. Questo in estrema sintesi, ma molto di più di tutto quello che bene scrive invece Ferrando. Hanno fatto la delega fiscale, c'è la promessa, certo, per un fisco meraviglioso tra un po' di anni, sì, però. Come le tasse, no? Come diceva. Con pazienza, però noi ci prendiamo intanto 4 pagine per spiegare le vicende. Tra le cose più importanti, sicuramente la riforma del catasto. È una riforma delicata, anche perché potrebbero sortirne persino dei rincari, però va apprezzata in tutta la sua bellezza in qualche modo. Allora, tutta la riforma del fisco, il fisco che sarà, viene spiegata in 4 pagine oggi. Sempre che non faccia la fine dell'attuazione, perché non so se hai colto il grido di dolore della pagina 2 del Sole 24 Ore di oggi, con i 500+ provvedimenti ancora da fare. E come no. L'eredità a Letta, sì, 204 sì. Sono solo all'economia, no? E infatti, complessivamente ce ne servirebbero 513. Non è che sia proprio una cosa che si possa fare in qualche giorno, vediamo, diciamo che c'è questa voglia di velocità, vedremo se intanto si riesce a fare qualcosa. A velocizzare qualcosa. E un'ultima cosa, ho messo i versamenti, cioè chi non paga le tasse, però appunto prima citavi il caso, ma non le paga per necessità, perché l'azienda è in crisi, eccetera, c'è tutto un filone della giurisprudenza che dice, beh, però piano con il reato, piano con l'aspetto penale, lo raccontiamo in Norme e Tributi oggi, quindi è una questione per, diciamo, professionisti. Eh sì, anche perché sono sempre più le sentenze di questo genere. Mauro, io ti ringrazio, ci dobbiamo fermare, com'è che ogni volta che mi incontro al bar dice, appena vedo Alessandro Milan lo guardo e dico traffico, non quando ti vedo ma quando ci salutiamo mi viene da dirti, certo, traffico. Mauro Meazza, grazie, buon weekend. È sono arrivate le pene alla Camera per la vicenda post ghigliottina e post decreto appunto Banca Italia con la rissa conseguente. Punito D'Ambruoso, il questore della rissa, non solo lui ma D'Ambruoso ha una sanzione di interdizione di 15 giorni ai lavori parlamentari, leggo dall'articolo della Stampa di Antonio Pitoni a pagina 5, ma anche sospesi 26 deputati che sconteranno la sospensione a scaglioni a decorrere dal 10 marzo, record di 25 giorni di sospensione per cumulo di pena. Ma chi è? Cioè, sembra il verbale del casellario giudiziario. Cumulo di pena ad Alessandro Di Battista per la bagarre in commissione e aver impedito al capogruppo del PD Speranza di parlare in sala stampa. Doppia sanzione, sempre per 25 giorni per i grillini Alberti, Della Valle, Ferraresi, Mantero e Valente. 13 giorni di sospensione per De Rosa, 10 giorni per i deputati Artini, Baroni, Battelli, Carinelli, Cecconi, Cominardi, e vabbè, insomma, in totale sono 26 deputati, compreso il questore D'Ambruoso, che sono stati sospesi per vari giorni. A proposito del Movimento 5 Stelle, continuano gli articoli sui giornali sulla resa dei conti per il Corriere della Sera, il gruppo in Senato, gli espulsi si contano, ci sono i contatti con i civatiani, c'è l'ipotesi di una forza alternativa al nuovo centrodestra, cioè creare una nuova maggioranza. Per cui la stampella al governo dal punto di vista parlamentare potrebbero farla questo nuovo gruppo Civati che esce dal PD e si mette insieme ai fuoriusciti del Movimento 5 Stelle e fanno un nuovo gruppo. Certo, è il terremoto tra i 5 Stelle, secondo Repubblica, pagina 12, escono 6 senatori e 2 deputati. Una delle più ortodosse, Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle, intervistata da Repubblica, pagina 13, dice a Tommaso Ciriaco: sa cosa le dico? Io mercoledì stavo malissimo, sono persone con cui ho lavorato, ma penso che abbiamo fatto finalmente chiarezza. Sono felice come una iena. Mi dispiace tantissimo non essere capogruppo, in questo momento mi sarei divertita un sacco. Insomma, sembra quasi proprio con il dente aguzzo della iena Paola Taverna a dire: sono felice come una iena. Dall'altra parte Alessio Tacconi, intervistato dalla Stampa da Andrea Malaguti, dice: mi dimetto, siamo diventati una setta di fanatici, da noi è diventato tutto opaco, a cominciare dal ruolo incomprensibile di Casaleggio, un manovratore oscuro, viene qui una settimana sì e una no, si chiude in una stanza con i responsabili delle varie commissioni e detta la linea, mi chiedo a quale titolo lo faccia. E poi insomma replica: non vado via per i soldi, ormai chi tocca Beppe muore, siamo diventati una setta. Insomma, ci sono un po' di malumori, per usare un eufemismo, all'interno del Movimento 5 Stelle. Articolo che potrebbe suscitare qualche problema e qualche fastidio certamente all'interno del governo è quello di Marco Lillo a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Del Rio e quell'appalto da 140.000 euro alla ditta del cugino. Marco Lillo racconta come nel 2009 Graziano Del Rio, oggi sottosegretario alla presidenza del Consiglio, da sindaco di Reggio Emilia fece una gara con una società che partecipa come molte altre alla selezione per la ristrutturazione di una scuola dell'infanzia all'Ende, importo 152.583 euro, una procedura negoziata, cioè una gara con partecipazione ristretta alle società invitate, aggiudicata col criterio del prezzo più basso. Chi vince è la società del cugino del sindaco. Paolo Del Rio, che controlla il 99% in qualità di socio accomandatario, nel verbale di determinazione del 22 aprile 2010, nel quale Paolo alza bandiera bianca e presenta richiesta di concordato per evitare il fallimento, il cugino dichiara di risiedere al civico 40 di una via di Reggio Emilia che non indichiamo per ragioni di privacy. La società ha sede al numero 16 della stessa via e anche il sottosegretario Del Rio è comproprietario con la sorella di metà di 2 appartamenti da 4 vani, un appartamento da 7 vani e mezzo e 3 box da 13 metri quadri nella stessa strada al civico 40. Insomma, racconta il Fatto Quotidiano Del Rio e quell'appalto da 140.000 euro alla ditta del cugino. Di cronaca c'è solo da segnalare i tanti articoli, soprattutto l'apertura del Secolo XIX sulla storia di due amiche quattordicenni che, dopo aver visto la storia delle baby squillo al Parioli, hanno fatto la stessa cosa perché volevamo comprarci jeans e borsette. Invece di andare a scuola facevamo incontri con gli adulti. Siamo al momento finale, però, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Ormai siamo alla geografia, cari italiani. La geografia, pagina 15 di Repubblica, Filippo Ceccarelli, mezza pagina, con un tweet alle 6:43, il premier che dorme poco dal buongiorno all'Italia. Mezza pagina per dire che Renzi, buongiorno Italia, l'insonne di Palazzo Chigi si è già manifestato alle 6:43 di ieri, 5 minuti prima del sorgere del sole. Vi rendete conto, su Repubblica? Io che mi sveglio alle 5, che minchia dovrei dire? E insomma, e la carta costa, dai, lo sappiamo.